l'alba porterà via i sogni tuoi, che la notte farai. Doccia, sigaretta, bevi il tuo caffè, respiri la tua libertà e poi partirai. L'auto corre sui pensieri tuoi ormai, ma la strada è lunga e tu lo sai. Oh, il tempo vola in fretta, pensando a chi vedrai uscire dalla porta e dirti mi manchi, sai. Che gli corri incontro e un abbraccio forte ti potrà fermare il respiro. Dagli tuoi vorrei, riprendi indietro i tuoi mai e non dirgli che sei un altro ormai. Quanta voglia di fermare i giorni tuoi in quei punti che il vento non passa mai. Nulla è spento se non vuoi, se tu lo vorrai, se ci crederai. E triste sulla porta poi ripartirai.